Allora, vai, parti tu. Vabbè, ah, cioè, no, non ho detto mica una. Ho detto che non hai diritto. Diritto, ciao. Io sarò telegrafico. Allora, una cosa che ho apprezzato molto negli interventi di Burgio è questa categoria a cui lui sempre ci richiama dell'universalismo. E io credo che oggi questa sia una categoria centrale, perché siamo di fronte a un universalismo senza qualità, che è quello dell'economia generalizzata e della mondializzazione dell'economia. Il vero problema, e qui inizio a differenziarmi, è che io non ritengo che all'universalismo senza qualità proposto oggi sia possibile riaffermare l'universalismo così come si è dispiegato, vado oltre il Novecento, dalla Rivoluzione Francese ad oggi. E so benissimo che questo è un nodo centrale, perché oggi dal sociale provengono anche forti movimenti che negano l'universalismo della Rivoluzione Francese ad oggi e combattono contro l'universalismo senza qualità in nome della negazione del concetto dell'universalismo. Per essere chiari, la Lega è un fenomeno di questo tipo. E quindi credo che la sinistra è di fronte al ricominciare a ragionare intorno a questo problema di un universalismo adeguato ai tempi. Non credo che questo possa essere risolto con le affermazioni forti, dotte e anche passionali di riferimento ai sacri principi. I sacri principi, a mio giudizio, non bastano più. Vanno sottoposti a critica e rivisti, proprio perché siamo di fronte alla sussunzione della categoria dell'universale, dell'internazionalizzazione e dei rapporti internazionali dentro una riproposizione dell'universalismo senza qualità. Questo mi pare un nodo centrale su cui ulteriormente ragionare. Non dico che oggi su questo, però questo mi pare un punto centrale del problema. Secondo punto, dal punto di vista del metodo, perché Burgio ci invita a questo terreno, lui dice: non utilizziamo in maniera essenziale e schematica la categoria del politico e la categoria del sociale. Lui dice, io utilizzerei di più generale e particolare. Io dico che, a mio parere, il problema oggi è tra una logica di essenzialità e una logica di intreccio. Su questo io sono totalmente d'accordo con Marazzi, quando dice che la fase oggi costringe all'intreccio del ragionamento. Il caso che poneva Marazzi era quello del lavoro salariale, il lavoro dipendente e il lavoro indipendente. Non è comprensibile se non si capisce l'intreccio tra queste due cose. Allora, il vero problema è l'intreccio. E l'intreccio avviene, e qui probabilmente di nuovo si differenziano le posizioni, sulla valutazione di queste due polarità. Io credo che, dobbiamo dircelo, l'autonomia del politico, così come da te viene presentata in maniera forte, è un elemento depotenziato. Non si può non dire che oggi ci troviamo di fronte a una crisi della forma partito come l'abbiamo conosciuta, perlomeno nella forma elementare in cui viene proposta. Oggi come oggi, il problema che si passi da partito di massa a partito di opinione sarà un problema, credo, no? Perché oggi ci confrontiamo con una categoria depotenziata che si ripresenta come partito d'opinione. Questo mi pare che ponga alcuni problemi che non si risolvono riproponendo in forma a sé stante la dimensione della forma partito come unica. La forma sindacato mi pare che sia una forma in crisi. E però dico intreccio perché io ritengo anche, e su questo non condivido l'analisi ottimistica di Tripodi rispetto al quale manca poco che i centri sociali eleggono il sindaco di Milano. e sono i soviet che fanno la presa del potere. Non mi pare che la situazione è questa. Ho la sensazione che siamo di fronte a un depotenziamento di quelli che erano i movimenti sociali, come noi storicamente li abbiamo conosciuti. E quindi abbiamo queste due polarità, che sono due polarità depotenziate, e lavoriamo sull'intreccio. Ho questa impressione io. Non ho le certezze di Burgio, questo lo dico molto chiaramente, credo che si capisca, ma non le ho anche perché dico che non ho la certezza che ci sia questa polarità della politica e la certezza che ci sia questo sociale forte da questo punto di vista. Questo però non significa che il problema si risolve riproponendo schematicamente la centralità della politica rispetto a un sociale depotenziato, perché tutte e due i corni del problema sono attualmente in crisi. Ultimo punto ed ho finito. L'ultima cosa che mi pare su cui bisogna di nuovo lavorare è che quello che permetteva l'intreccio tra politica e sociale, a cui Burgio ha fatto riferimento nella sua replica, in cui dice non è vero che c'è lo Stato, le istituzioni non fanno tessuto sociale. Beh, io credo che il tessuto sociale che c'è stato, e su questo non ho dubbi, avveniva proprio su quella categoria dei diritti a cui tu hai fatto riferimento prima. E i diritti ruotavano intorno essenzialmente a due polarità, che era da una parte la scarsità e dall'altra parte l'uguaglianza. Scarsità e uguaglianza. Questo era il problema. Come si riusciva a partire da elementi di scarsità per raggiungere elementi di uguaglianza. E rispetto a questo ci si organizzava collettivamente, il conflitto, eccetera, eccetera. Io credo che una delle categorie che presenta il moderno è la categoria tra abbondanza e selezione. Abbiamo una società in cui le chance sono sempre più riproposte, sono sempre più abbondanti, ma il vero problema è che è difficilissimo l'accesso a questo. E il problema è che per accedere a questo deve avere dei punti di libertà del soggetto. E da qui bisogna partire. Quindi io mi limito a dire nel dibattito che certamente queste sono alcune categorie di fondo che stanno mutando e sul quale dobbiamo incominciare a fare ragionamento. Ultima cosa, visto che tu dici dichiariamoci, ma io qui non ho nessun problema a dichiararmi dicendo che questa è un'antica questione che dura non solo da 100 anni, ma dura da 200 anni, come dice giustamente Rossanda, e che rispetto a questo io non sto dalla parte, sto dalla parte di Kronstadt più che dalla parte dei bolscevichi, e questo è normale. Se bisogna fare una dichiarazione di principio, questa facciamola, ma mi pare ovvio che da questo punto di vista il percorso culturale a cui si fa riferimento è questo.